e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno a tutti, noi siamo tornate a casa. Sì. Dopo due giorni di Salone del Mobile, eccoci di nuovo qui nello studio di Via Monterosa 91, pronte per una nuova puntata. Oggi ci aspetta un menù particolarmente ricco e direi di iniziare dalla tradizione con il nostro consueto appuntamento del giovedì, dedicato alla nostra scuola di risparmio. Deborah, oggi che cosa ci hai preparato di buono? Ma sai, io mi sono dovuta sforzare molto poco, perché qua la cronaca finanziaria ci offre sempre dei piatti molto succulenti. Mm-hmm. Lo sai, sì che è nato il Fondo Atlante, il titano che reggeva la volta celeste, si è scomodato anche per la finanza. Magnifico! Il Fondo di Stabilizzazione Bancario, ne parleremo con Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi, ma faremo un punto soprattutto sui nostri risparmi. Dove li mettiamo in questo momento ancora così delicato e turbolento per i mercati? Allora, quindi, se risparmi e mercati saranno il piatto forte, direi che, come saluto della cucina, no? In ogni ristorante, come, no, stellato, c'è il saluto dello chef, abbiamo scelto una startup che dovrebbe farci risparmiare starnuti e denari. Ah. E quindi, se il vostro naso è particolarmente sensibile, restate con noi, e se lo diventa solo in particolari periodi dell'anno, e quindi fate parte dei 6 milioni di italiani alle prese con starnuti, occhi lacrimali, la tossetta stizzosa, l'insonnia, affaticamento, restate, perché per limitare il fastidio potrebbe essere utile anche apportare qualche aggiustamento alla vostra dieta. E poi ci occuperemo dei bambini. Il numero dei bambini allergici è in aumento, ci sono dei gesti tipici che un piccolo fa e che potrebbero, con un margine d'errore molto basso, far arrivare i genitori quasi dritti alla diagnosi. Ma non finisce qui, la data di oggi evidenziata in rosso sul calendario di Cuore Denari è una delle 20 giornate dedicate alla salute dell'anno in corso, che tra l'altro vedrà ben due new entry: la giornata dedicata alla fertilità, il Fertility Day, sai Deborah, che sì, è stata proprio voluta dal ministro Lorenzin. Quando è? È il 7 maggio, però ce n'è una proprio prossima, il 22 aprile, approvata sempre dal Ministero della Salute sul proposta del Comitato Atena Donna, dedicata tutta alla salute della donna, su cui noi naturalmente torneremo, anzi invitiamo le nostre amiche all'ascolto a suggerirci dei temi, degli aspetti di cui vorrebbero parlare. E se avete bisogno di informazioni, comunque sapete che noi siamo sempre a vostra disposizione: cuoredenari@radio24.it. Intanto, sapete dirmi, tornando alla giornata di oggi, che cosa lega il 14 aprile alla salute? Chiamateci e scriveteci, Deborah. Sì, allora, invece sai che ti dico, visto che mi hai stuzzicata, farò anche un domandone che, come dire, consentirà ai nostri ascoltatori già di mettere in moto il cervello per la seconda parte del programma, per investire informati. In realtà il concetto sul quale stuzzico oggi gli ascoltatori va bene per moltissime discipline, perché in molti siamo un po' dummies su tante cose. Che cos'è un dummy? Lo sapete questo concetto all'inglese, in che cosa appunto si può tradurre in italiano? Ne parleremo anche nel secondo programma, appunto associandolo al gergo finanziario. Intanto, se volete cominciare a fare qualche ricerca, poi ce la metterete al corrente all'800 24 00 24. Dormire, salutare, autostop, starnuto. Quanti raffreddore vi prendete in un anno? Più o meno di 10, e con l'esperienza magari avete un po' capito quando e in che occasione siete più vulnerabili. Tu, Deborah? A me quest'anno devo dire che è andata proprio grassa, come si suol dire, quindi sono qua che aspetto qualche risveglio del naso con le allergie in arrivo, i primi pollini e quant'altro, però sono raffreddori, diciamo, di altro tipo questi, no? Di cui parleremo sicuramente, certo, nel corso della trasmissione. I raffreddori che non hai preso tu li ho presi io, tra l'altro. Vero. Però il mio agopuntore mi ha detto che il raffreddore serve anche al corpo per eliminare le tossine. E anche quindi io ce l'ho tutte ancora addosso? Tu addosso, io le ho eliminate. Me lo attacchi un pochino di raffreddore? Va bene, ti bacerò. In ogni caso, i dati Istat dicono, ci raccontano che il raffreddore colpisce circa il 46% della popolazione sopra i 14 anni. Quindi è una veramente folla di nasi colanti che portano, adesso qua ci sono i dati che piacciono a te, Deborah. Dimmi tutto. Allora, portano a una perdita di circa 40.000 ore di lavoro, 20.000 ore di scuola per un costo sociale che si aggira intorno ai 250 milioni di euro all'anno. E forse tutto questo nel prossimo futuro potrebbe essere evitato, pensa tu, con un paio di spruzzini. La ricerca infatti sta lavorando al primo spray nasale antivirale. Ne parliamo oggi col professor David Lembo, professore di virologia molecolare all'Università di Torino, che con un gruppo di esperti ha lavorato al progetto. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori. Intanto, lei che di virus se ne intende, quanti raffreddori si becca in un anno? Ah, guardi, di raffreddori se ne prendono moltissimi. Sa che è stato calcolato che in media si passano 5 anni della nostra vita in compagnia del raffreddore. Là. Ecco, pensate, 5 anni, una brutta compagnia. Certo. Allora, e quando arriva il raffreddore, professore, ciascuno di noi si attrezza, no? C'è chi beve litri di spremuta, chi si affida ai rimedi della nonna, chi spende magari una fortuna in farmacia. Questi sono tutti rimedi più o meno validi per controllare i sintomi, ma nessuno in realtà fa centro, perché nessuno colpisce la causa, cioè il virus che scatena il raffreddore. Voi ce la farete? Siete quasi lì per riuscire a fare centro? Ma noi ci stiamo provando sulla base di una solida sperimentazione. Lei ha illustrato molto bene l'impatto del raffreddore sulla popolazione, una necessità medica molto importante per lo sviluppo di nuovi farmaci e anche una grossa opportunità di mercato, considerando le dimensioni del problema. Noi pensiamo di farcela e diciamo il nostro ottimismo è basato su una scoperta che abbiamo fatto qualche tempo fa, e cioè che alcune molecole prodotte dal nostro organismo, quindi molecole fisiologiche che derivano dall'ossidazione del colesterolo, hanno una potente attività nel prevenire e nell'interrompere l'infezione da tutti i tipi di rinovirus, che sono i virus che causano il raffreddore, sinora assaggiati. Quindi diciamo, noi abbiamo l'ambizione di sviluppare il primo spray nasale antivirale contro il raffreddore. Complimenti. Tra l'altro, professore, siete riusciti a mettere KO il raffreddore sfruttando il tanto demonizzato colesterolo. Sì, ecco, diciamo che il colesterolo forse è fin troppo demonizzato. Perché serve. In realtà è una molecola utile e molto importante per il nostro organismo. Dal colesterolo derivano per esempio tutti gli ormoni sessuali. La nostra specie non esisterebbe. Ecco, buttalo via questo colesterolo, professore. Ecco. Tra l'altro, ecco, riuscirà forse a mettere KO anche il virus del raffreddore. Professore, tra l'altro, il vostro è uno dei 3 progetti. Questo piacerà molto a Deborah, perché è una cosa molto a cuore denari, perché è uno dei 3 progetti vincitori della prima edizione di BioApper, che è un percorso proprio lanciato a sostegno di nuove idee nel settore delle biotecnologie mediche, e vede da Novartis, dalla Fondazione Cariplo, c'è anche il sostegno di Polyhub, della Fondazione Humanitas. È un progetto che riesce a trasferire sul mercato i risultati della ricerca scientifica. Insomma, professor Lembo, aiuta la ricerca a diventare impresa. È corretto? Questo è estremamente importante. Per le nostre università, i nostri centri di ricerca sono pieni di ottime scoperte, pieni di ottimi ricercatori, ma dobbiamo essere aiutati anche a trasformare le nostre scoperte in impresa, in imprese che sono poi utili per tutta la società. Quindi molto importanti iniziative di questo tipo, e il nostro progetto Panoxivir ha ricevuto subito importanti riconoscimenti da parte di giurie qualificate, BioApper ma anche altri, e quindi con queste nuove competenze, che non sono quelle proprio dello scienziato ma dell'analista di mercato, della capacità di fare un business plan, cerchiamo di recuperare i fondi necessari e disegnare un buon progetto imprenditoriale per riuscire a fare questa impresa, quindi a sviluppare questo spray antivirale. Noi lo aspettiamo, professore. Intanto le mettiamo il bollino di cuore denari. Ci stai, assolutamente, Deborah? No, poi stavo pensando anche alla questione dell'importanza della ricerca. Noi demonizziamo tanto la fuga dei cervelli di questi ragazzi ricercatori brillantissimi che vanno a farsi l'esperienza all'estero. Non la dobbiamo demonizzare, perché secondo me oggi come oggi è un percorso anche fuori dall'Italia, è necessario. Il tema è poi farli rientrare oppure tenerli quanto più possibile. Certo che se certe scoperte le trasformiamo in impresa, è chiaro che li invogliamo un po' di più, no, questi giovani, ma anche forse meno giovani, perché poi ci si mantiene ricercatori anche per periodi piuttosto lunghi, no? Sicuramente. Sicuramente, questo è un circolo virtuoso, certo. Dobbiamo assolutamente farlo in Italia. Professore, io la ringrazio, le facciamo i complimenti, ci sentiamo presto e aspettiamo lo spray. Grazie, allora speriamo di risentirci presto. Incrociamo le dita, voi invece con il vostro dito componete il nostro numero verde 800 24 00 24. Gli ascoltatori già mi suggeriscono di usare regolarmente la lotta, perché per chi ha tanto, ha spesso il raffreddore, Anna la usa regolarmente e il raffreddore lo manda via. Noi non parleremo solamente del raffreddore virale, ci sono anche altri tipi di raffreddore, raffreddore stagionali, le allergie, lo sapete, sono arrivate. E noi ne parleremo tra poco. Cuore e denari. Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era. Eh sì, non sono solo i virus a scatenare il raffreddore. Un tempo, te lo ricordi, Deborah, si parlava di raffreddore da fieno. Ecco, esatto, infatti, che è quello che temo un po' io. Brava, adesso non si usa più questo termine, no. Si parla di rinite allergica, però più o meno la stessa cosa. La novità è che il numero degli allergici continua ad aumentare, è un po' come i fan di Cuore Denari, Deborah. E purtroppo, se siamo così, abbiamo questo vizio della famositudine. Allora, pensa che 4 italiani su 10 si stima soffrano di allergie primaverili, quindi se siete tra questi o sospettate di esserlo, chiamateci, diteci come state, come tenete a bada tutta quella serie di sintomi che si presentano insieme al classico raffreddore, ma risponderemo naturalmente anche alle vostre domande sul raffreddore, quello che arriva ad esempio a Laura da Como subito dopo il giorno dopo quando va in piscina, oppure daremo dei consigli a una mamma preoccupata che ha una figlia che vive all'estero, continua a usare il paracetamolo, continua a prendersi il raffreddore e ci chiede ma magari qualche vitamina potrebbe aiutarla, magari potrebbe andare un po', no, con di vitamina C, ma non solo, insomma, se avete il raffreddore, gli occhi lacrimanti, un po' di pizzichino in gola, siete stanchi, ma anche un po' irritabili, diteci che cosa fate, usate rimedi naturali, ad esempio gli esperti di naturopatia consigliano il Ribes Nigrum, che funziona come un antistaminico naturale. Voi invece preferite prendere gli antistaminici, vi danno sonnolenza, avete fatto il vaccino oppure puntate sull'alimentazione, perché anche le scelte a tavola possono fare la differenza. Incidere. Chiamate, scrivete anche per trovare la causa di un raffreddore sospetto. 800 24 00 24. Abbiamo in linea con noi un grandissimo esperto, il dottor Alessandro Fiocchi, responsabile del reparto di allergologia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, anche per l'allergia, dottor Fiocchi, non è mai troppo tardi. Si può infatti diventare allergici anche nel corso della vita. Questo non ci piacerà molto, ma lei ci aiuti subito a distinguere il raffreddore allergico da un comune raffreddore. Bene, i sintomi del raffreddore allergico rispetto al comune raffreddore sono molta più acqua dal naso, grande prurito, grande voglia di strofinarsi il naso, a volte sangue dal naso e tanta sternutazione. Questi sono, se vi siete riconosciuti, 800 24 00 24, se avete riconosciuto anche i sintomi del vostro compagno, di un vostro collega, l'allergia tocca chi tocca, può capitare anche a noi, 349 238 6666, mandateci i vostri messaggi di WhatsApp e tra l'altro ho letto che contrariamente a quello che si potrebbe pensare, chi vive in città soffre di più se allergico, perché l'inquinamento urbano rende i pollini più cattivi, più aggressivi. E perché, tra l'altro, Deborah, un po' come succede in borsa, anche i pollini salgono e scendono, no? Sì. Per avere un quadro chiaro, come tu apri la tua piattaforma e vedi, sale questo, scende. Quindi noi invece abbiamo internet che ci aiuta, ci sono tanti siti dedicati che ci danno l'andamento delle graminacee, delle cupressacee, della parietaria, dell'ulivo. Ma professor Fiocchi, ci faccio un hit parade dei pollini del momento. È andato giù a prenderla. Intanto un attimo. Potete andare a vedere sicuramente, l'Italia sai è lunga, ogni regione che vai una pianta che ti dà un po' fastidio la trovi, ma andiamo a vedere che cosa ci dice Vito da Verona. Buongiorno Vito. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno. Grazie di avermi richiamato, siete molto carine, tutti i giorni io vi ascolto molto volentieri. Grazie. Allora, Vito, volevo dire solo questo, molto semplicemente, io che sono molto soggetto al raffreddore, ma soprattutto quando colo il naso, che mi dà un fastidio enorme perché mi viene il naso rosso e grosso, ho trovato un sistema, o seguo questo sistema da 70 anni, da quando ero bambino. Ecco, me lo mia mamma dica. Mi metteva l'olio caldo sul naso e sulla fronte, cioè i canali intorno all'occhio naturalmente, e sulla fronte. Non mi veniva né mal di testa e neanche più di tanto il raffreddore, perché nel giro di un giorno e mezzo mi passava tutto. Quindi tutto, praticamente segna la fronte e il naso con l'olio. Esatto, l'olio caldo. L'olio caldo. Il più caldo possibile. Senza naturalmente scottare, perché poi lì ci vuole un altro rimedio. Questo il lo miele. So io, il miele. Se vi scottate, mi raccomando, andate di miele. Dottor Fiocchi, lei non so se ha sentito il consiglio di Vito di olio. Certo, è uno dei lenitivi naturali che possono essere utilizzati anche per i bambini. A volte si usa per esempio la farina di lino anche con lo stesso scopo. Sono emollienti naturali, certamente per le forme più lievi possono aiutare molto questo. Quello che però non possono fare è risolvere le forme più gravi. Allora, abbiamo promosso e approvato il rimedio di Vito, se ne avete altri, 800 24 00 24, se avete dei dubbi, dei consigli. Intanto un'ascoltatrice su WhatsApp mi scrive, io l'avevo anticipato, che per le allergie sua figlia sta tenendo a bada tutti i sintomi con il Ribes Nigrum. Fantastico, infatti è un antistaminico naturale. Professor Fiocchi, ci fa l'hit parade del polline del momento? Si trasforma in un sito dei pollini? E beh, siamo in un momento topico, stanno cominciando le graminacee in questo momento e stanno vivendo un'epoca d'oro dal loro punto di vista, i pollini della betulla e del nocciolo, che quest'anno con l'inverno caldo che abbiamo avuto, Nicoletta, hanno cominciato da gennaio, per cui tanti bambini, tanti pazienti che pensavano di avere dei raffreddori normali hanno scoperto quest'anno di essere allergici contro, diciamo, la logica abituale. Professore, dottor Fiocchi, tra l'altro i bambini stanno aumentando il numero dei bambini, i bambini allergici sono in aumento, ma ci sono dei segni che possono aiutare il genitore a capire che il loro piccolino è allergico. Ne parleremo subito dopo il nostro GR. Ricordatevi però che oggi è una data importante. Che cosa lega la data di oggi alla salute? Chiamate il nostro numero verde, per voi libri. Radio 24 sulla rotta dei migranti, con Papa Francesco alle porte d'Europa. L'isola di Lesbo è il capolinea meridionale della rotta balcanica. Migliaia di persone hanno sfidato il mare in condizioni di precarietà per raggiungerla. Papa Francesco l'ha scelta per rilanciare il suo appello alla solidarietà e all'accoglienza. Radio 24, ancora una volta sulla rotta dei migranti, vi accompagna in questo storico viaggio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Siamo tornati insieme in questa seconda parte di Cuore e denari. Ci occupiamo di allergie. Questo è il loro momento. Ci aiuta il dottor Alessandro Fiocchi del Bambino Gesù di Roma. Dottor Fiocchi, una pioggia di telefonate dei nostri ascoltatori che si domandano: ma posso diventare allergico? Mi colla il naso in continuazione. Dottor Fiocchi, diamo una serie di indicazioni pratiche per le persone che possono scoprire quest'anno di essere allergici, che il clima è cambiato e le allergie spuntano come funghi, e poi racconteremo anche come si possono prevenire le allergie, perché dato che sono in aumento i medici sono impegnati non solamente a curarle ma a cercare dei modi per prevenirle. Quindi se siete allergici, avete dei figli piccoli, attenzione ai consigli del dottor Fiocchi. Dottor Fiocchi, tre consigli per le persone che hanno il naso colante, il pizzicore al naso, la tosse in questo momento. Volete sapere se siete davvero allergici? Beh, il test principe naturalmente è il test cutaneo, che è quello che si fa mettendo una goccina sul braccio, ma il vostro medico potrebbe non farvelo. Voi chiedetelo al medico se avete prurito al naso forte, se avete voglia di strofinarvi il naso, Sì, i vostri fazzoletti si moltiplicano. In questo caso parlatene magari anche col farmacista prima e poi anche col medico, il quale vi farà fare le prove di allergia. Guardate i vostri bambini, ci sono dei gesti che il bambino allergico compie, naturalmente, no? Perché ha avverte un certo disagio, che è importante i genitori conoscano per saperli riconoscere. Dottor Fiocchi. Sono diversi. In realtà sono tutti riconducibili al prurito. Un primo gesto è quando il bambino con la manina si tocca il naso da destra a sinistra e viceversa, se lo sfrega. Un secondo è quando con la manina tocca il nasino dal sotto in su fino a tormentarselo e a farsi venire una riga proprio sopra il lobulo del naso che noi guardiamo con attenzione e ci permette di identificare il bambino allergico. Il bambino che ha la piega sopra il lobulo del naso è un bambino allergico. Il terzo è lo sfregamento invece degli occhi con un movimento circolare della manina chiusa a pugno. Questi qua sono forti elementi di indizio di allergia. Poi naturalmente ce ne sono altri, la pelle brutta, l'orticaria. Certo, ma questi sono i più evidenti. A proposito di bambini, l'ospedale Bambino Gesù di Roma ha stilato un decalogo suddiviso in 5 regole che le famiglie dei bambini allergici ai pollini dovrebbero seguire nel periodo proprio clou, quello critico, e le 5 cose inutili che spesso le stesse famiglie fanno senza giovare ai loro bambini. Andate sulla nostra pagina, troverete il link e quindi potete leggerli. Professor Dottor Fiocchi, anche le scelte a tavola possono in qualche modo aiutarci a lenire i sintomi dell'allergia. Quali sono gli alimenti che dobbiamo limitare o evitare? Limitare in questa stagione alimenti è una cosa che molti fanno, ma che ha degli effetti piuttosto dubbi. Diciamo che quelli che comunemente vengono evitati sono gli alimenti che contengono istamina, per esempio la fragola, il cioccolato, il tonno, eccetera. Questo vale soprattutto se le persone soffrono di orticaria, ma il risultato è veramente molto molto dubbio. Piuttosto serve per prevenire le allergie avere una dieta ricca di vitamine e di alimenti vegetali fin dalla nascita o addirittura fino alla gravidanza. Questo è certamente invece in relazione con una buona prevenzione della malattia. È vero che avete fatto degli studi che hanno dimostrato che una dieta ricca di probiotici e vitamina D potrebbe prevenire nei soggetti predisposti all'allergia? Ricca di probiotici, sì, ricca di prebiotici anche. Questi studi sono degli studi molto grossi, sono delle meta-analisi di tutto ciò che è pubblicato in letteratura e hanno prodotto delle linee guida che da quest'anno stanno seguendo tutti gli allergologi nel mondo per consigliare alle mamme in attesa di pensare al futuro allergico dei loro bambini anche consigliano di farlo sostanzialmente in 3 modi. Mangiare tanta frutta e verdura, l'abbiamo già detto, considerare l'uso di probiotici durante la gravidanza e l'allattamento e il bambino, e al bambino piccolo dare delle formule, se non hanno il latte di mamma, che contengano prebiotici, perché i prebiotici possono prevenire le allergie se date nel bambino. Allora, per tutte le vostre domande a cui non siamo riusciti a rispondere, vi diamo questa possibilità. Andate sul nostro profilo Facebook, quello di Cuore Denari. Ci sarà un post. Voi scrivete lì la domanda e noi metteremo al lavoro addirittura l'ospedale pediatrico Bambino Gesù non di Roma. Non so cosa possiamo fare più per di voi. Questo. Ecco. Buongiorno, dottor Fiocchi. Grazie per essere grazie. Stato con noi. A disposizione degli ascoltatori. Grazie. Grazie. Così ci piace, vedi. E noi andiamo subito a salutare il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità. Una giornata importante, quella di oggi, un convegno che il professore ha aperto naturalmente i lavori, dedicato alla giornata. Professor Walter Ricciardi, buongiorno. E questa è buongiorno. Una domanda che abbiamo girato ai nostri ascoltatori per sensibilizzarli un po' sull'importanza di questa giornata. Di che giornata parliamo, professore? E oggi è l'Alcohol Prevention Day, cioè la giornata per la prevenzione degli abusi del consumo di alcol. Noi ci stiamo, la buona notizia è che stiamo imparando a bere meno e a bere meglio, quindi già qualche passo avanti lo stiamo facendo, ma come sempre si può fare meglio e si può fare di più, professore. Assolutamente, no, abbiamo una storia di successo perché noi siamo, è noto, il primo paese produttore perlomeno di vino, diciamo, e quindi di una bevanda alcolica molto importante. Però negli anni, contemporaneamente a questo nostro successo, diciamo, agricolo e commerciale, abbiamo avuto un decremento importante del consumo di alcolici. Quindi, sintetizzando, si potrebbe dire che gli italiani sanno bere meno, ma sanno bere meglio. Questo purtroppo non vale per tutte le fasce d'età, quelle che ci preoccupano un po' di più sono i giovani. su cui è importante, no? Ancora attivarci, fare educazione e informazione con delle campagne. È un target molto difficile da raggiungere, professore. È un target difficile, ci proviamo. Domenica a Roma e in altre parti d'Italia si correrà, diciamo, una corsa per sensibilizzare ovviamente i giovani. L'anno scorso ne hanno, diciamo, abbiamo visto 8.000 partecipanti a questa corsa. Poi adesso, in collaborazione con il Ministero della Salute, partirà proprio da oggi una campagna pubblicitaria, informativa, sia televisiva che radiofonica, per distinguere tra divertimento e diciamo ubriacatura, perché molto spesso purtroppo chi si ubriaca poi non si diverte affatto. Esattamente, quindi è bene bere poco e divertirsi. E poi l'altra cosa molto importante, imparare che quando si ritorna a casa dopo un ristorante, una discoteca, c'è bisogno sempre di una persona che non abbia bevuto che guida. Questi sono gli accorgimenti più importanti. Purtroppo, ecco, i giovani, come diceva giustamente lei, non sono facili da convincere, però anche su questo versante ci stiamo provando. Non bisogna mai gettare la spugna. Bere poco, bere bene, bere quanto? Bere un bicchiere di vino a massimo al pasto per i maschi sarebbe mezzo bicchiere a pasto per le donne, perché c'è differenza importante, diciamo, nel metabolismo, cioè nel come un corpo maschile o femminile assorbe e metabolizza l'alcol. Quindi le donne sono sotto questo punto di vista più vulnerabili, per cui dovrebbero bere un po' meno. Ma diciamo sostanzialmente il bicchiere di vino rosso soprattutto è quello che noi consigliamo. È sempre il rosso che vince sul bianco nel confronto delle proprietà salutari, professor Ricciardi. Con mio grande dispiacere, perché io invece sono un po' più orientata da bianco. No, e ci pizzica anche il naso nel frattempo. Il rosso dal punto di vista salutare, diciamo, perché contiene delle sostanze, il resveratrolo in particolare, che sono effettivamente, se uno ne beve moderatamente, addirittura protettive nei confronti di diverse patologie, tra cui più importanti le malattie cardiovascolari. Grazie professor Ricciardi per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro anche a lei. A prestissimo. Che incetta di informazioni che abbiamo fatto oggi, eh? Cerchiamo devo dire di fare che il possibile. Esatto, il mordi e fuggi, così i nostri ascoltatori incidono bene nella loro pietra mentale tutte le informazioni che passiamo. Noi abbiamo a cuore un architetto, vero? Se lo becchiamo quello là. Poi sveleremo un giorno ai nostri ascoltatori perché ce l'abbiamo tanto, non con la categoria degli architetti, per carità, anzi tutti questi creativi in giro per Milano in questi giorni. Ci piacciono molto, ma con uno in particolare poi vi racconteremo perché. Adesso che abbiamo... non riesce a stare mai fermo. Ma guardate, abbiamo proprio il dente avvelenato contro questo personaggetto, come direbbe De Luca. Invece allora, adoriamo, io adoro il tuo ospite di questa quello puntata, di oggi sì, allora perché capisco tutte le cose rullino che i tamburi. Adesso vi racconto chi abbiamo oggi. Allora, di che cosa parliamo? È giovedì, lo sapete bene che cosa succede il giovedì. Per qualcuno un po' è una minaccia, per qualcuno invece come dire, c'è grande interesse intorno alla modalità con cui abbiamo organizzato i nostri giovedì di cuore e denari. Che succede? Che continuiamo a vederne di cotte e di crude sui mercati, come direbbe Speciani, di cotte e crude, no, com'è? Fresche, crude e colorate. Fresco e colorato. Ecco, allora oggi tocca rifare la stessa lista della spesa quando guardiamo alle borse e ai mercati finanziari, perché in questo periodo le borse vanno su e giù in maniera molto ampia, c'è grande volatilità perché le borse sono preoccupate per l'andamento economico globale che in molte aree rallenta, in altre invece la situazione economica va verso il meglio perché il petrolio condiziona ancora questi trend economici. Peraltro attendiamo con grande interesse il nuovo vertice dei paesi OPEC e non OPEC che si svolge proprio in questo fine settimana a Doha nel Qatar. C'è ancora grande attenzione per i tassi di interesse, veramente abbiamo ossessionato in ogni modo i nostri ascoltatori e risparmiatori su questi argomenti, sono tassi di interesse sempre più bassi, rimarranno su questi livelli ancora a lungo e i risparmiatori non sanno dove e come investire per avere dei rendimenti invece ragionevoli che i titoli di Stato ormai non garantiscono più. E poi cosa abbiamo in Italia? Il grande tema bancario che agita il sonno di molti, ma sembra essere arrivata una figura imponente destinata a stabilizzare il sistema. Un bel pezzo d'uomo. Mamma mia, dice. Guarda, veramente. Si è scomodato il titano che reggeva sulle spalle la volta celeste, Atlante, così risparmiatori, piccoli investitori devono davvero fare ogni sforzo possibile e stare attenti a tutti questi cambiamenti attorno a loro. E allora, tutto questo lungo preambolo, come sempre, per dire per fortuna che ci siamo con la nostra rubrica del giovedì. Investire informati.